Welcome to the Menji Show. Good listening. Buon ascolto a tutti, amici e amiche, benvenuti e bentrovati all'interno del Mangia Show. Mi presento per i nuovi amici e magari le nuove amiche che non hanno mai ascoltato questa trasmissione. Io sono Andrea, detto Mangia dagli amici, diminutivo del mio cognome Mangiarotti. Preferisco utilizzare questo pseudonimo così per essere più amichevole nei vostri confronti, così per entrare, diciamo così, più dolcemente nelle vostre radio, nelle vostre nei vostri computer, visto che trasmettiamo su web. Un saluto agli amici di Radio Oltrepò e un saluto anche agli amici e alle amiche di Radio Stella che trasmettono la nostra trasmissione. All'interno di questo programma ascolterete principalmente della musica, insomma il filo conduttore principale è la musica, ma non la musica consona che magari ascoltate giornalmente nelle vostre radio predilette. La musica trasmessa all'interno del Mangia Show sono canzoni tutelate dalla licenza Creative Commons, oppure brani di pubblico dominio che noi ricerchiamo in giro per il web, magari su siti tipo www.yamendo.com oppure direttamente sulle reti P2P. Vi ricordo anche i nostri contatti, se volete essere grandi protagonisti con lo show potete visitare il sito www.andreamangiarotti.com e su quel sito aggiungerci nei principali social network oppure semplicemente potete scrivermi una mail. Direi di non perdere tempo e ascoltiamoci la prima canzone che apre ufficialmente lo show, è dell'amico Graziano Manca al secolo Dark Light. Questa è la sua ultima produzione estratta dal suo nuovo album. Signore e signore, la grande musica di Dark Light. Avete ascoltato tipo un suono? Bene, è una chiamata di un amico che ci faceva i complimenti direttamente sul cellulare, un mio amico, insomma. Grazie veramente Joe, grazie. abbiamo aperto la grande, il Mangia Show, con questa canzone di Dark Light al secolo Graziano Manca. È un produttore, un artista piacentino appassionato di sonorità dance, crea musica principalmente dance non commerciale, ma è anche un appassionato di musica d'autore. Pensate un po', ascolta molto De André e altri grandi cantanti italiani, però lui insomma ci diverte e gli piace produrre delle sonorità molto molto ambient oppure anche trance eccetera eccetera, quindi spazia nel genere musicale dance non commerciale. Noi abbiamo ascoltato in esclusiva la title track del suo nuovo album. Se volete maggiori informazioni visitate la sua pagina su www.yamendo.com, basta cercare Dark Light, trovate le sue produzioni nonché anche la sua pagina dove, diciamo così, aggiungerlo come amico su Yamendo, e c'è anche su Facebook, basta cercare Manca Graziano, anche se lì la ricerca è un po' più complicata perché non c'è solo lui, c'è, sono altri con lo stesso nome. Ora andiamo avanti, per voi un disco molto caldo, come si diceva negli anni 70, un bel disco caldo, molto molto dance. Torniamo indietro nel tempo, lo facciamo con la grande musica Creative Commons del Mangia Show. Want some fun, baby, yeah. Feel the groove, start to move. precedenza Fox a Pet con Music, ora siamo tornati in onda con questo brano dal titolo Rumba Alemana di El Perez, 1992-2012. 20 anni fa, che cosa accadeva in Italia? Solo so che lo sapete, 20 anni fa scoppiato in Italia il caso di Tangentopoli. Leggiamo questo articolo estratto dall'ANSA.it di Paolo Barbieri. Da una piccola palla di neve può partire una valanga che travolge tutto e tutti. Così come da un fatto di cronaca può partire una metaforica valanga in grado di travolgere un sistema politico che ha retto per quasi 50 anni. L'arresto di Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio di Milano, sorpreso dai carabinieri il 17 febbraio del 1992 alle 17.30 nel suo ufficio milanese, è stato sorpreso ad intascare una mazzetta di 7 milioni di lire. Era la prima tranche di 14 milioni pattuiti da Luca Magni, proprietario di una piccola azienda di pulizie. È stata come una palla di neve che ha provocato la valanga. Alle 22.16 di quel giorno l'ANSA diede la notizia all'ingegner Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio di Milano, una casa di riposo per anziani, pensate un po', è stato arrestato questa sera dai carabinieri con l'accusa di concussione. E i carabinieri sono stati veramente astuti perché si sono finti, diciamo così, mi sembra un imprenditore che doveva pagare una tangente, e così hanno incastrato Mario Chiesa. Dopo questo suo arresto è veramente arrivata una valanga di nomi di tutti gli schieramenti politici che sono stati inguaiati in Tangentopoli. Infatti, come dice l'articolo, nei giorni seguenti all'arresto Bettino Craxi definì Mario Chiesa un mariuolo che getta un'ombra su tutta l'immagine di un partito. Lo stesso anche l'ex sindaco di Milano Carlo Tognoli, che affermò: appare strano che le pecore nere vengano individuate solo nel PSI. E poi ancora più duro dei primi due, Bobo Craxi, ancora più duro, appunto, dichiara Mario Chiesa un mascalzone idiota. Poi a farsi prendere con le mani nel sacco. Guai a farsi prendere con le mani nel sacco. Di Pietro fece arrivare in tempo reale queste dichiarazioni a Chiesa, rinchiuso a San Vittore, e lo informò di aver sentito la moglie con la quale era in atto una difficile causa di divorzio, e attraverso il suo legale fece recapitare un messaggio captato: l'acqua minerale è finita. Chissà che cosa voleva dire, va bene. Il presidente, per l'appunto, di questa società del Pio Albergo Trivulzio, poi forse probabilmente anche incoraggiato da questi commenti del PSI, insomma dei leader del PSI, ha iniziato a svuotare il sacco e ha iniziato a parlare di conti in Svizzera denominati Fiuggi, Levissima e Ferrarelli. Insomma, aveva questo modo di definire in questo modo i conti. Ecco, dopo quel fatto, si può dire, è scoppiata Tangentopoli, sono stati tanti gli arresti, tanti partiti, diciamo così, decimati, forse gli unici ad essere usciti abbastanza indenni sono stati gli ex comunisti. Comunque, 2012-1992, un periodo da ricordare per la cronaca, ma forse è meglio dimenticare per l'onestà degli italiani. Insomma, non è certamente un esempio da portare ai posteri, però per dovere di cronaca abbiamo letto questa notizia, come vi ho detto in precedenza, estrapolata dal sito dell'AMSA online. More music variety right here on the listener's choice. precedenza abbiamo parlato di mani pulite, ora parliamo invece di politica fatta con le mani pulite. Citazione del grande Sandro Pertini, che sicuramente moltissimi di voi ricorderanno. Ho dato uno sguardo al sito, per l'appunto, della Fondazione Sandro Pertini e mi sono accorto che sono state pubblicate un sacco di opere a lui dedicate. Il libro che vi vorrei citare quest'oggi è a cura di Pietro Pierri ed è intitolato Gli uomini per essere liberi, Sandro Pertini. Leggiamo un pochino quello che ci dice questo autore. Gli uomini per essere liberi è necessario prima di tutto che siano liberati dall'incubo del bisogno. E questo è uno dei passaggi più significativi contenuti nelle lettere inedita che apre questa raccolta di testi e scritti di Sandro Pertini. Al centro del pensiero e dell'impegno di Pertini c'è un'idea forte e irrinunciabile di eguaglianza che ha come suo corollario la negazione di ogni privilegio e consorteria. Il presidente più amato degli italiani, simbolo per tutti di una nazione possibile e sognata, voleva che l'Italia divenisse una repubblica declinata al plurale, dove a prevalere fossero il dialogo sul sopruso, la condivisione dell'egoismo, il bene comune sull'interesse privato. Questi ideali si ritrovano sia nelle pagine pubbliche sia in quelle private che arricchiscono questo libro, regalando al lettore l'immagine più intima e personale di un uomo che tutti gli italiani sentono ancora vivo. Il libro, curato da Piero Pieri, è per l'appunto edito da AD ed è Piero Pieri, vicepresidente della Fondazione Sandro Pertini. Ricordate il titolo del libro, Gli uomini per essere liberi, testo dedicato a Sandro Pertini. It's like Hathaway said, don't hurt me, be loved like Saturday. today's kids, reminiscent of them latter days past, when our love could outlast the lady loves grass. Charlotte's web and a wove next to the freeway crash, when hearts collide, some of these catching feelings were way too fast. Pour gas on a fire and you're bound to get burnt. I wonder sometimes if I ever will learn. How could you hurt me like you did? We were supposed to start a family, we were supposed to have a kid. Siete sempre all'ascolto del Mangia Show, vi ricordo il mio blog per interagire con me, www.andreamangiarotti.com, li trovate i vari link per aggiungerci nei social network, oppure semplicemente la mia email dove potete scrivermi per esprimere considerazioni su questo programma. Dopo questo bel brano Crushed, veramente dance, molto molto bello, leggiamo un'altra notizia che questa volta abbiamo estrapolato dal Il Giornale, che però, devo essere sincero, è una news riportata precedentemente dal Fatto Quotidiano. Complotto contro il Papa. Ad estato scappore la notizia lanciata in prima pagina del Fatto Quotidiano di un presunto complotto contro il Papa. Un documento riservato nella quale si ipotizza la morte di Benedetto XVI entro novembre del 2012 e si parla di un complotto contro il capo della Chiesa Cattolica. Il documento sarebbe scritto in tedesco in modo di far circolare il meno possibile la news, ma il tedesco è la lingua proprio del Papa, quindi non è scritto né in arabo né in cinese, quindi qualcosa veramente di strano. E secondo il quotidiano sarebbe autentico, quelle pagine esistono e nessuna smentita le può cancellare. Questo è il direttore Antonio Padellaro, per l'appunto, che dichiara, si prende la responsabilità su questa notizia circolata proprio nel suo giornale. La secca smentita nella Santa Sede ha detto: si tratta evidentemente di farneticazioni che non vanno prese in alcun modo sul serio. Siamo alla follia, ha detto il gesuita Federico Lombardi, portavoce del Vaticano. Pubblicate quello che credete, ha riportato Lombardo parlando con il Fatto, ma vi prendete ogni responsabilità. Mi sembra una cosa talmente fuori dalla realtà e poco seria che non voglio nemmeno prenderla in considerazione. Questa è la reazione della Santa Sede e questo invece è sempre il Mangia Show. As I kneel down to spell your name in the dust on the floor that we'd danced on so many times before. Broken windows let the birds in. Our breath, it made clouds, and they wrapped us like shrouds to keep November from reaching our skin. And the ghost of the DJ floats in from the freeway. He puts on your favorite waltz. So I take your hand, the invisible band leads us dancing around in the hall. Oh, hollow from the sunset caught the big disco ball and sent dusty rays of light into your face. Then the light from the ball hit the frost on the walls and sent oranges and reds into space. Boy, I caught a glance in the midst of our dance. For a moment I stopped in my tracks. And the room was ablaze with the fiery rays, while the frozen air blew through the cracks. And our bodies are frozen in time, and our bodies are frozen in time. Our bodies are frozen in time, and our bodies are frozen in time. Oh, and our bodies are frozen in time, and our bodies are frozen in time. And our bodies are frozen in time, and our bodies are frozen in time. Come vi ho detto in precedenza, stiamo facendo un pochino dei test per selezionare il sistema operativo giusto per le dirette. Vi dico subito che saranno dei sistemi operativi decisamente retro, guardiamo un pochino il passato, perché non utilizzare per trasmettere magari Windows 98 oppure Windows 2000. Ecco, stiamo un pochino variando con dei test il sistema operativo giusto, ovviamente sarà un po' vetusto, stiamo decidendo se mettere anche magari Ubuntu di Linux o qualche altra versione di Linux, però siamo, diciamo così, orientati verso Windows, magari Windows 2000, così, no? Ci piace essere un pochino retro. E se anche voi magari amate l'informatica di circa 10 anni fa, ora vi do una piccola dritta. Parliamo di un browser che se lo installerete sul vostro computer vi riporterà indietro negli anni, vi riporterà a navigare sul web come si navigava nel 1998-1999. Questo browser si chiama Dillo ed è nato, se non erro, principalmente per Linux, poi è stato sviluppato anche per Macintosh e anche per Windows. Pensate, occupa pochissimo spazio, 350 kilobyte, quindi leggerissimo. L'utilizzo della memoria è quasi nullo. Può essere consigliato questo browser internet a chi è che magari vuole consultare le notizie. Per esempio noi della radio, di Radio Oltrepolo, lo utilizziamo come browser predefinito perché utilizzando poca memoria ci consente di essere in diretta insieme a voi, parlare, mettere su dischi e allo stesso tempo, come sto facendo ora, leggere magari delle news su internet. Però se magari siete persone un pochino, non dico bizzarre, però magari persone che adorano il passato, può essere tranquillamente installato anche su Windows 7 oppure su le ultime versioni di Ubuntu, di Linux, fate voi. Ricordate, Dillo, web browser multipiattaforma, e quindi lo trovate tranquillamente, basta digitarlo su Google e lo potrete scaricare e installare sulla vostra macchina. Ora andiamo avanti con la musica, con il grande sound dell'artista scandinavo Kammerer, eccolo qua che arriva. Classic hits to the best of today. In precedenza abbiamo ascoltato il disco di Kammerer, Manta Div, e ora siamo tornati in onda invece con questo grande successo di Adult Only dal titolo Parfum. Vi ricordo che la musica di Adult Only, come anche quella di Kammerer, è tranquillamente e liberamente condivisibile su yamendo.com, dove potete condividere, scaricare l'intero album, masterizzarlo e ascoltarlo poi magari in macchina. Siete sempre all'ascolto nel Mangia Show con il vostro amico Mangia in diretta con voi su questa bella radio. Vi ricordo ancora tutti i miei contatti: www.andreamangiarotti.com se avete voglia magari di far sentire la vostra voce attraverso il web. E ora inauguriamo lo spazio I Love Cinecittà. Nello spazio I Love Cinecittà solitamente analizziamo una pellicola italiana che ha fatto la storia della cinematografia del passato. Tra le tante pellicole italiane, quest'oggi parliamo a grandi linee e velocemente di Splendore e Miserie di Madame Royale, un film molto bello del 1970, del genere drammatico poliziesco commedia, per la regia di Vittorio Caprioli, con Ugo Tognazzi, per l'appunto lo stesso regista Vittorio Caprioli, Jenny Tamburi e altri artisti che sono presenti. Ora leggiamo a grandi linee proprio la trama. andiamo sempre veloce nello spazio dell'Off Cinecittà. La trama di questo film è la seguente: Alessio, un ballerino omosessuale che ha abbandonato il mondo dello spettacolo per prendersi cura di Mimmina, la figlia di un suo vecchio amico, per l'appunto. Questo è il personaggio principale, che è Ugo Tognazzi, Alessio. Mimmina si caccia ripetutamente nei guai e viene arrestata dopo aver subito un aborto e rischia di subire una condanna penale, perché come sapete bene, negli anni 70 in Italia l'aborto era ancora illegale. Alessio, fa il corniciaio e a tempo perso, diciamo così, si diverte a vestirsi da donna e si veste per l'appunto da Madame Royale. E praticamente questo Alessio tiene degli incontri periodici con gli amici dove tutti si travestono da donna e si divertono così. Ovviamente è una cerchia di amici omosessuali. E cosa accade? Che per l'appunto la figlia che Alessio ha in casa, vive con lui, anche se è la figlia di un suo amico, si caccia ripetutamente nei guai per droga, eccetera eccetera, viene arrestata e poi cosa accade? Che in modo fortuito il nostro Alessio, Ugo Tognazzi, avrà modo di conoscere un ispettore di polizia che gli proporrà un affare: far uscire dal carcere la sua amata Mimmina, però allo stesso tempo fare il doppio gioco, cioè praticamente sgominare una banda di persone che svolgono degli affari loschi nella città. Ecco, questa è la prima parte del film, non voglio insomma continuare ancora a svelare il resto. Ovviamente abbiamo reperito le informazioni da Wikipedia e la trovate anche voi se volete conoscere il film. Vi dico subito che su Wikipedia viene proprio svelato tutto il film, quindi non so se vi conviene tanto leggerlo, perché vi dicono come va a finire la pellicola. Sempre meglio, come si chiama, magari acquistarsi il DVD se si riesce a trovare, oppure se possedete Sky, mi pare che sia i diritti d'autore di Splendore e Miseria di Madame Royale siano in possesso di Sky, quindi se avete Sky magari prossimamente vi programmano questo film. Dal cinema ora invece passiamo alla politica con una canzone cliccatissima su YouTube, un brano ironico scherzoso che ci parla di Le Petit Guignol. Chi che sarà Le Petit Guignol se non lui? Sarkozy, Le Petit Guignol. Il était un petit guignol dans son palace cosy, qui m'a dit très gentiment: travaille plus pour gagner plus. Alors j'ai voté pour lui, j'ai fermé ma bouche aussi, et j'ai gaspillé mon temps pour en gagner toujours plus. J'ai face à mon canapé le plus cher des écrans plats. J'ai garé dans mon garage, oui, la plus stylée des bagnoles. J'ai même dans la salle de bain un jacuzzi qu'on s'en sert pas. Après tout ça reste quoi? Les promesses du petit guignol. Il était un petit guignol dans son palace cosy. Il était un petit guignol qui s'appelait Sarkozy. Mes enfants, je les embrasse grâce à la technologie. Par webcam de mon bureau, le soir, je leur dis bonne nuit. Ils sont mignons, surtout dans leurs tout nouveaux habits. À la sortie de l'église, la photo sur la table de nuit. Le samedi, c'est la sortie, comme toujours, au champ Fnac et Flunch. Quand les gamins sont ravis, ça fait plaisir à ma bonne femme. Le dimanche après-midi, oui, c'est le golf après le brunch. Puis les bourses à la voisine, nous, on va dîner à Paname. Il était un petit guignol dans son palace cosy. Il était un petit guignol qui s'appelait Sarkozy. Les cachères et les racailles, c'est pas vraiment mon affaire. Y'en a pas dans mon quartier, mais moi c'est surtout pour les gens qui les côtoient tous les jours que j'estime qu'il faut faire quelque chose pour les aider, comme ajouter des agents. Et faut bien dire aussi qu'on est bien bien assez nombreux dans ce pays d'assister, nous qu'on peut pas les accueillir. tous ces pauvres immigrés qui ne veulent pas rester chez eux. C'est pas contre eux, mais quand même, on peut pas se laisser envahir. Il était un petit guignol dans son palace cosy. Il était un petit guignol qui s'appelait Sarkozy. Qui c'est qui paye ses bibis? Et alors on dit merci qui? Heureusement qu'il est assis sur son beau trône bien mérité, pour écraser les branleurs qui gueulent dans la rue contre lui. Le gentil petit guignol qui va sauver tous les Français. Mais j'avoue que je sais plus, que je doute un petit peu plus. Pour tout dire, j'ai même balancé, ouais, ma carte de l'UMP. Parce qu'à force de travailler, de collectionner les heures sup, je suis carrément blasé et ma vie part en fumée. Il était un petit guignol dans son palace cosy. Il était un petit guignol qui s'appelait Sarkozy. Le petit guignol che s'appelle Sarkozy. Abbiamo trovato proprio una notizia che riguarda Nicolas Sarkozy. Fondi neri per il presidente della Francia. Guai in vista per il presidente Nicolas Sarkozy. A pochi mesi dalle elezioni spuntano finanziamenti per la passata campagna elettorale, quella del 2007. Finanziamenti da parte di Lilian Betancourt, l'anziana miliardaria erede del L'Oréal. Pensate un po'. Vediamo cosa dice. In Francia la legge sul finanziamento ai partiti, disciplinata nel 1990, i contributi offerti ai politici e ai partiti sono ammessi, ma solo in piccole quantità, circa 150.000 euro. Non rientrano in questa regola, quindi finanziamenti ottenuti da Sarkozy, almeno così dicono. Andiamo avanti con la musica, questo bel brano di The Legend. No, scusate, The League, non The Legend, scusate, ma il computer fa poi capricci. The League, scusate, ma un po' di raffreddore e anche a leggere sullo schermo un pochino in piccolo può capitare qualche piccolo errore. Erano The League con The Soundtrack of Your Summer, bellissima canzone che abbiamo ascoltato qua all'interno del Mangia Show. Purtroppo è anche l'ultima canzone perché siamo giunti al termine dell'edizione odierna. Avete ascoltato il Mangia Show. Le informazioni su www.andreamangiarotti.com. Alla prossima puntata. Che dire del Mangia Show, cari amici e cari amiche, siamo giunti al termine. In finale vi ricordo tutte le coordinate per entrare in connessione con il nostro programma: www.andreamangiarotti.com, quello è il mio sito ufficiale, dove trovate la mail per scrivermi, oppure semplicemente tutti i vari link che vi portano ad aggiungerci su Facebook, oppure semplicemente a leggere le nostre notizie su Twitter Network, se mi va. Ovviamente, avendo questa voce nasale, tra un po' mi vado a fare un bel tè caldo e mi auguro che per voi insomma sia una bella giornata se magari ci ascoltate di giorno, una buona serata se invece ci ascoltate la sera in diretta con la nostra radio. Un saluto agli amici di Radio Oltrepoco che ci ospitano e un saluto anche agli amici di Radio Stella che ci trasmettono in diretta anche loro, e un saluto a tutte le radio che magari ci trasmetteranno o magari senza farsi ascoltare però insomma mandano in onda il nostro show. Grazie a tutti, noi ci ritroviamo ancora prossimamente, stessa radio, stessa musica, e vi lascio con l'ultima canzone, che è anche la canzone di chiusura, mi piace veramente tanto. Sentite qua che sonorità, molto molto lente, direi azzeccata per meditare. Avete 5 minuti e 5 minuti e 5 secondi per riflettere, meditare e perché no pensare sulle note stupende di questo brano troppo bello. Grazie a tutti, ci risentiamo alla prossima. Ciao. Have you heard? The Menzies Show. In partnership with www.menzies.com is renewed. In the next episode. Thanks for listening.